con Fabio Marceddu e Antonello Murgia per lo spettacolo Alfonsina Pancia Vuota della compagnia Teatro dall'Armadio che si è aggiudicata il premio Museo Cervi Teatro per la Memoria al Festival della Resistenza in scena alla 18ª edizione del Palio Poetico Teatrale Musicale Ermo Colle a Montechiarugolo l'11 agosto 2019. Bentrovati. Ciao, ti ho trovato su. Allora, partiamo proprio dalla compagnia, ce ne parlate un po'? Sì, la compagnia Teatro dall'Armadio è nata nel 2006, dopo uno spettacolo che abbiamo presentato al premio Dante Cappelletti, dove c'era un armadio proprio in scena che rappresentava un po', insomma, la memoria collettiva, la coscienza collettiva. E un'attrice che lavorava insieme a noi usciva dall'armadio, quindi non avendo ancora un nome, un giorno le persone del Teatro Valle ci chiesero, insomma, come vi chiamate? Noi siamo quelli che escono dall'armadio, quindi a quel punto, insomma, anche perché è un gioco di parole che contiene tante cose, Dio, allarme, eccetera, no? Quindi questa è la storia. In questo spettacolo Alfonsina Pancia Vuota, Fabio è autore e attore, Antonello firma le musiche originali e la regia. Sì, anche l'ideazione scenica, io ci tengo a dirlo perché è molto importante, perché io sono partito solo da un testo sfoglio molto bello, ma che si prestava proprio a una regia che poteva essere di qualsiasi genere, tipo. In realtà il testo nasce un anno e mezzo fa in occasione di un progetto con Francesco Niccolini che si tiene a Montagne, Montagne racconta, ogni anno lui raccoglie, seleziona degli attori che sono anche narratori e questo progetto nasce come teatro di narrazione, ma volutamente ci siamo orientati verso uno spettacolo che potesse allontanarsi dalla narrazione e essere altro e quindi Antonello si è dedicato a questa messa in scena che si avvale della collaborazione drammaturgica di Niccolini e poi abbiamo una coproduzione dell'Exma che è anche la sede, il nostro partner, noi siamo partner di questo centro poliedrico e poliartistico che sta al centro di Cagliari all'interno dell'Exma Sartorio, dove ci sono curatori mostre, degli spazi per l'arte, una radio, c'è Tardex, la moneta elettronica che è stata creata in Sardegna e adesso è anche mutuata in molte altre regioni e tante altre realtà artistico-culturali. Che racconta questo spettacolo? Che storia è? Allora, drammaturgicamente è una storia simbolo a cavallo tra la seconda guerra mondiale e gli anni 50, è ambientata in una città mineraria di una ipotetica Sardegna, che poi è Sardegna, e racconta i soprusi e gli abusi subiti da una servetta Alfonsina, una ultima fra gli ultimi, che alla fine laicamente si riscatterà, nonostante la costruzione a tre atti di quest'opera, che rifaccia in qualche modo una cerimonia non prettamente laica. Ci raccontate anche un po' dell'esperienza del Festival della Resistenza, il premio Museo Cervi, che mi sembra un'esperienza rilevante? Sì, un'esperienza rilevante perché lo spettacolo, come forse saprai, è stato agito proprio dietro il Museo Cervi, quindi in qualche modo si sentiva la presenza della storia, una storia che poi non è tanto così, non è poi così lontana, no? Voglio dire, anche per i rigurgiti, insomma, odierni, di atteggiamenti fascisti, ecco. E quindi è stato importantissimo farlo lì, innanzitutto per l'affluenza di pubblico, non solo, un pubblico, 300 persone capaci di stare un silenzio, capace di stare attente e con una partecipazione attiva, sincera, che poi abbiamo visto anche il giorno della premiazione in occasione della pasta asciutta antifascista, dove c'erano tantissime persone, è proprio sentito collettivamente questo non voler fare passi indietro, non voler più tornare in quelle, insomma, in cadere in quegli errori, ecco. Quindi Alfonsina Pancia Vuota, avendo delle analogie con tutto questo, è era lo spettacolo perfetto in quel momento. Che percorso farà ora lo spettacolo? Diciamo, l'ultima versione, perché abbiamo fatto degli studi, è partita l'anno scorso, mi piace citarlo, dal Festival Le Voci dell'Anima organizzato da Maurizio Argan e Alessandro Capri a Rimini, e da lì ha avuto i primi riconoscimenti. Io considero quella la data effettiva del debutto, e ora abbiamo, dopo l'Ermo Colle, la settimana prossima quasi più o meno, abbiamo già delle date vendute a San Marino e ci stanno contattando in tanti, perché c'è bisogno di resistenza, di tante resistenze, non soltanto, cioè esiste, è un momento proprio in cui dobbiamo resistere, e Alfonsina questa è una voce tra le tante, ma non generica, ma determinata, per resistere, quindi noi speriamo in tante repliche. E speriamo anche in qualche modo, perché bisogna resistere da spinte esogene ed endogene. Nel senso che è difficile spostarsi in un mondo teatrale dove apparentemente non ci si riesce a riconoscere, a volte si è circondati da finti amici e falsi nemici. In chiusura ci date tutti i riferimenti web per seguire lo spettacolo e anche le attività della compagnia? Ma molto volentieri, Antonello, come dici tu? Sì, soprattutto la pagina del Facebook del Teatro dall'Armadio, il nostro sito teatrodallarmadio.com, diciamo che questi due sono i principali mezzi che possono aiutare le persone a seguirci. Poi in questa fase io volevo ringraziare anche l'ufficio stampa, che è molto attivo, che ci sostiene, l'ufficio stampa di Maria Genovese, che sta sostenendo moltissimo in questa campagna di promozione, di affermazione di quello che esiste già. Perché esistere, si ha bisogno di urlare la propria esistenza in questa società di resistenza. Lo spettacolo Alfonsina Pancia Vuota della compagnia Teatro dall'Armadio, in scena alla 18ª edizione del Palio Poetico Teatrale Musicale Ermo Colle a Montechiarugolo l'11 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento a Fabio Marceddu, che è autore e attore dello spettacolo, e Antonello Murgia, che ha firmato ideazione scenica, regia e musiche originali. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, buon lavoro, grazie.